Allora, ringrazio davvero di questa possibilità che mi è stata data di partecipare alla presentazione di un uomo che ho sempre, il titolo già è significativo, basta un uomo, che ho sempre ammirato e che ho conosciuto, devo dire, una sola volta. Ho incontrato personalmente una sola volta, ricordo alla fine degli anni 60, nel periodo in cui frequentavo l'università a Firenze, e era un periodo in cui Firenze era veramente un grande laboratorio, un laboratorio dove c'erano personaggi del livello, era il momento lapiriano, dalla Pira c'era Balducci, c'era padre Giovanni Vannucci, Don Luigi Rosadoni, appunto Bruno Borghi, Don Lorenzo Milani, sicuramente la persona che più ha influito sulle mie scelte di vita. Ecco, questo momento fu un momento, diciamo, di grande laboratorio, io lo chiamo di umanità, sostanzialmente, in cui ci si incontrava, ci si confrontava partendo da quella che era l'adesione al Vangelo cosiddetto dei poveri. Ancora non si parlava di teologia della liberazione, ma il discorso che portavano avanti figure come Don Milani e Don Borghi era già, precorreva questo. E è difficile oggi, in questa grande amicizia fra Borghi e Milani, dire quanto l'uno, chi è che ha più influito l'uno sull'altro. Per esempio, le pagine che riguardano il lavoro sono che Milani ha scritto, riguarda proprio la scelta dei poveri. Basta ricordare la lettera dall'oltretomba, io ho portato proprio per questo il libro, appunto, secondo me fondamentale di quel periodo di Don Milani, Esperienze pastorali, e la lettera a Don Piero, per capire quanto Don Milani, appunto, quando affrontava quello che era il tema dello sfruttamento disumano, e uso questo termine non a caso, perché oggi si parla di umano e di disumano. Ecco, io devo dire che per le prime volte l'ho sentito usare questo termine proprio da Milani e dal Borghi. E oggi viviamo immersi nel disumano, che è soprattutto, lo vediamo di fronte alla guerra tremenda di questi giorni e soprattutto nei confronti dei migranti, in particolare quelli neri che vengono rifiutati. Io lavoro, è stato detto da Lucia, con Don Massimo Biancalani, spero che ce la faccia stasera a fare un salto qui nelle strutture di Vicofaro, dove sono ospitati attualmente circa 200 africani, per lo più rifiutati da altre strutture. Quindi si lavora in una società, bisogna tener presente, disumana. E allora è importante ricollegarsi a chi ebbe il coraggio in quegli anni, anche di fronte a una chiesa che era una chiesa chiusa, una chiesa che sospendeva divinis un padre Giovanni Vannucci, che chi l'ha conosciuto sa benissimo che persona di mitezza e di profondità era. Questa era la chiesa con cui si scontravano Don Borghi, Don Milani e tutte queste figure. E quella lettera che scrissero insieme a quattro mani, la lettera a Floritte, è significativa di questa chiesa che tradiva sostanzialmente i poveri, e che mentre invece era alla base sia della scelta del Milani, che purtroppo scomparve troppo presto, nel 67, e poi accompagnò tutte le scelte del Borghi, sia quando scelse di andare a lavorare in fabbrica come prete operaio, sia quando andò buonasera Don Biancalani, buonasera ragazzi, sono contento che appunto siano presenti anche loro. E quindi queste scelte che accompagnarono che accompagnarono, che c'è problemi? Che è successo? Un anno che passa forse. E quindi, dicevo, le scelte del Borghi furono scelte sempre dalla parte degli oppressi, anche dopo, dicevo, con gli operai delle fabbriche in cui ha lavorato, quella con la sua, diciamo, quando andò in Nicaragua, la scelta per i disabili e con i carcerati. Lui usa questo termine, mi pare, Beniamino lo mette in evidenza, il termine di scelta e non di vocazione. Ecco, questo è molto importante. Io mi arrabbio anch'io quando mi dicono tu hai la vocazione di lavorare nella scuola o di lavorare con gli ultimi. No, è una questione di scelta. Scelta vuol dire prediligere dei valori e delle persone rispetto a altri, dal punto di vista proprio etimologico. E questo è quello che ha fatto Borghi e che ha pagato una, due, tre decine di volte nella sua vita. Ed è andato in fondo senza, diciamo, mai rifuggire da quelle che erano le sue responsabilità, non rifiutando il disumano. Ecco, io sono di Borghi, devo dire, non ricordo molto le parole di quell'incontro avvenuto circa 50 anni fa. Ricordo una cosa, ricordo questo volto, questo che ha messo Beniamino, ha messo nella copertina, questo me lo ricordo benissimo, questo volto che aveva quegli occhi, dagli occhi sinceri, dallo sguardo diretto, con quella parola, ricordo, calma, pacata, ma che affermava con fermezza delle verità e delle scelte pesanti. Questo ricordo, che cosa disse, no, ma non si scordano queste cose anche a distanza di tanti anni, così come ricordo l'incontro con Don Lorenzo Milani, anche questo è avvenuto una volta sola, quando il Milani con le sue parole ferme richiamava quello che era il Vangelo, quello che era la pesantezza delle scelte che lui aveva fatto e che invitava a fare in quel preciso momento storico. Ecco, e quando si viene immersi in una realtà sociale, che è una realtà sempre sotto certi aspetti che ci coinvolge pienamente, si è dominati da due sentimenti, l'ottimismo e il pessimismo. Credo che, e questo mi pare che Beniamino lo mette bene in evidenza nel libro, che è presente nella vita di Bruno Borghi. L'ottimismo è l'entusiasmo della scelta dell'umano. Il pessimismo è quante volte, anch'io come altri, lo provo quando vo con questi ragazzi che conosco personalmente uno per uno, la mattina a insegnare italiano, e nello stesso tempo c'è la sfiducia, il pessimismo. Il pessimismo che ha provato tante volte Bruno quando ha visto come veniva tradita la rivoluzione in Nicaragua, come la Chiesa tradiva i poveri, come i disabili, i carcerati venivano in un certo modo umiliati nella loro dignità personale. C'è una parola, io appunto una frase molto bella riportata appunto, che riguarda proprio la lettera al Dipartimento di Amministrazione Finanziaria, quando dice: per gli extracomunitari c'è una condizione di abbandono, incertezza, spesso disperazione, per loro il futuro non esiste. Sa Don Massimo quante volte noi abbiamo discusso su questo, abbiamo parlato di questa rivolta a loro come la volontà di dare un futuro, perché questi ragazzi, perché gli ultimi, quelli che vengono emarginati, hanno un nome, hanno una storia, anche se questa storia viene cancellata, anche se, come succede in questo periodo, nessuno vuole neri a Pistoia, anche quelli più gravi, quando la notte vanno da Don Biancalani a cercare un posto per dormire. Ecco, Bruno Borghi, che veniva da una famiglia modestissima, che viene messa bene in evidenza, sapeva cosa significava questo fin da quando, diciamo, era bambino, quando la madre andava la mattina a vendere le verdure. E quindi è il mondo a cui bisognava, ecco, rivolgersi. E questo chiediamo, ecco, concludo ringraziando di nuovo Beniamino, perché sono riuscito a ritrovare anche il significato dell'oggi in questo libro, il significato di quello che è battersi ogni giorno per l'umano. Perché, come diceva, anche nel settore mio, che è un settore privilegiato, è il settore della cultura, ma come ho capito quel 4 novembre del 65, quando sono andato dal Milani, che la cultura ha un valore solo se è al servizio di chi viene privato per sempre. E lo dice Beniamino quando riferisce l'esperienza del Borghi con il gruppo che faceva alfabetizzazione in Nicaragua. Ecco, rendere la parola ai poveri, questo è il significato della cultura. Tutto il resto a me personalmente ormai non mi interessa da anni. Non credo che sia veramente mi dà un senso di estraneità, perché se oggi ricordiamo Bruno Borghi, ecco, ci deve dare speranza in questo. Io sono contento che i ragazzi africani siano qui, perché la speranza, ricordatevi, vi deve essere data, perché altrimenti quest'Italia è disumana. Non è nell'Italia Bruno Borghi, e non è l'Italia di Lorenzo Milani, né quella che io ho conosciuto. Grazie.